ma che bella giornata di sole. Quanta gente per le strade nuove, quanti treni alla stazione, ma per tornare a casa. E la chiamano liberazione, questa giornata senza morti, questo profumo di limoni dalle finestre aperte. E mio padre vivrà solo il sogno di questa terra, perché quello che ha è ancora guerra. Oh, oh, oh, oh. E mia madre amerà questo sogno di prigioniero, perché quello I'm